guida distratta è stata definita dal segretario dell'ONU come un'epidemia. Io sono d'accordo, è contagiosa, è un virus che rischia di provocare molti morti e molte ferite. Purtroppo tutti dobbiamo ammettere che facciamo più cose contemporaneamente. Allora, l'esempio è molto semplice. Se io rispondo al cellulare mentre guardo la televisione, tutta più posso perdermi un gol di una partita di calcio. Se rispondo al cellulare o mando un SMS mentre sto guidando, posso perdere la vita, la mia o quella di qualcuno dentro l'automobile o fuori della mia automobile. Questo è un fenomeno molto grave e per questa ragione, come lei diceva, noi stiamo lanciando una campagna di sensibilizzazione molto forte, molto, molto dura, per mandare messaggi chiari a tutti quanti noi, utenti, cittadini, guidatori. Quando guidi, pensa a guidare, non fare altro, pensa a guidare.